Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Dunque, il 5 febbraio prossimo, fra pochi giorni, dopo circa una ventina di anni, l'Europa torna a proporre delle nuove direttive per quanto riguarda l'inquinamento acustico, in particolare le emissioni dei mezzi a motore, dei veicoli. Il 5 febbraio in particolare il Parlamento vota dell'ultima votazione, si riunisce in assemblea plenaria e questa direttiva proposta dalla Commissione europea passerà oppure non passerà, introducendo nuovi limiti inferiori, naturalmente, per quanto riguarda le emissioni consentite, le emissioni acustiche consentite ai veicoli. C'è una campagna di Amici della Terra, associazione ambientalista, per sensibilizzare rispetto a questo tema e anche per spingere un po', insomma, a votare positivamente, ad abbracciare quella che è la proposta della Commissione europea. E noi a nostra volta abbracciamo la campagna di Amici della Terra. In linea con noi c'è il responsabile delle campagne internazionali Amici della Terra, Massimiliano Bienati. Buonasera Bienati. Buonasera a lei. Dunque Bienati, cominciamo a ricordare ai nostri ascoltatori quali sono le conseguenze dell'inquinamento acustico, perché vengono molto sottovalutate. Io tra l'altro ho abitato un paio di appartamenti a Milano in cui mi sono accorto molto bene delle conseguenze dell'inquinamento acustico. Veramente può peggiorare drasticamente la qualità della vita e anche della salute in alcuni casi. Assolutamente sì, secondo l'ultimo rapporto 2012 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, attenzione, dopo l'inquinamento atmosferico, quindi quello dai PM10 e via discorrendo, quello acustico dovuto al traffico, particolarmente su strada, ma c'è anche il traffico aereo, il traffico su ferrovia, che però hanno impatti minori in quanto sono solitamente certo. Più... Ci sono anche attività che non riguardano il movimento dei veicoli, che fanno rumore naturalmente, anche se non se ne occupa questa direttiva. Diciamo che in generale l'inquinamento acustico è il secondo tra i fattori ambientali a maggiore impatto sulla salute umana. Addirittura ci sono studi che stimano che circa la metà degli infarti mortali all'anno in Europa, ovvero circa 50.000 casi, siano conducibili a questo effetto. Sì. Una cosa è sicura, si dorme male in ambienti rumorosi, questo sicuramente non fa bene alla salute. Ci sono degli studi che sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che riportano disturbi cognitivi e quindi anche minore capacità di concentrazione dovuto a diversi fattori che può essere certo di sonno, disturbi cognitivi o comunque riduzione della produttività sia nello studio che nel lavoro nel momento in cui in qualche modo nella crescita dei bambini, il che è allarmante. Se traduciamo tutto in termini economici, cosa viene fuori? Ma viene fuori secondo delle stime indipendenti, ma di centri di ricerca assolutamente qualificati, che il rapporto costo-beneficio di interventi per la riduzione dell'impatto dell'inquinamento acustico dovuto a traffico e particolarmente su strada è pari a circa un fattore di 30 a 1. E il potenziale cioè per uno che si investe si risparmia 30 in costi sociali, Esattamente. E il potenziale risparmio stimato, cumulato al 2030, nel momento in cui le nuove norme venissero approvate dal Parlamento, sì, quindi la proposta della Commissione diventasse legge e gli stati membri la convertissero poi al loro interno, certo. C'è una stima di circa 80 miliardi di euro cumulati al 2030 di costi sociali evitati, costi sociali che includono costi sulla salute, quindi costi sanitari e, come dicevamo prima, costi anche legati alla produttività e via discorrendo. Insomma. Ecco, di che cosa stiamo parlando? Cioè questa nuova normativa che limiti ulteriori introdurrebbe, quanto verrebbe anche a costare? Perché fare un veicolo, perché di questo stiamo parlando, la normativa interviene sui veicoli, dice fate dei veicoli meno rumorosi. Naturalmente fare un veicolo meno rumoroso costa un po' di più che farlo rumoroso. Sempre rifacendosi a studi di impatto promossi e quindi recepiti dalla Commissione europea, quindi ufficialmente riconosciuti, si tratta di costi se per interventi sui veicoli a motori, cioè sui motori dei veicoli per ridurne la rumorosità, si tratta di circa 20 euro, 15-20 euro a decibel per le auto, sì, fino a 250 euro circa a decibel. A decibel sempre per interventi su mezzi pesanti che sono i camion e soprattutto gli autobus. Gli autobus, ecco, proviamo a dire rapidamente che cosa sono questi decibel, perché non tutti sono tenuti a saperlo. È la scala con cui si misura il rumore, una scala logaritmica come quella che si usa per i terremoti. Ogni 3 decibel il rumore raddoppia, quindi se riducete, esatto, i 3 decibel dimezzate, se riducete di 6 decibel riducete a un quarto. Quanto si prevede di ridurre il rumore in questa normativa? Nella proposta originale della Commissione, che poi è stata anche dopo diversi passaggi che hanno tentato... Molto ostacolata, diciamo, possiamo immaginare, esatto, da chi le auto le produce... Diciamo dai produttori di auto, camion, che hanno, certo, trovato buon supporto all'interno del Parlamento, soprattutto nei gruppi, Parlamento europeo sto parlando, nei gruppi più conservatori, però stiamo parlando di una riduzione complessiva di circa 4 decibel, considerando una media tra auto e mezzi più pesanti. Se vuole posso anche essere più preciso nei termini, però questo è il valore medio. 4 decibel, quindi si tratterebbe mediamente di dimezzare o poco più il rumore. Ecco, per concludere, ricordiamo che l'alternativa per ridurre il rumore è insonorizzare tutte le case, mettere barriere acustiche, e comunque questo non migliorerebbe le condizioni in strada, perché poi va bene che stiamo dentro casa, ma ogni tanto ci capita anche di uscire, no? Stare fuori, esatto. Ecco, non so se qualcuno ha fatto i conti di cosa costerebbe insonorizzare il mondo intero, ma temo un po' di più che... Guardi, ci 30 euro a decibel. Ci sono sempre nella assessment impact della Commissione dati relativi ai costi anche per questo, ed è una stima che dice che insonorizzare le abitazioni o i bordi strada con barriere protettive costa circa 10 volte di più rispetto a intervenire con tecnologie esistenti, non dimentichiamolo, sulla sorgente di inquinamento sonora, che è in questo caso il motore del veicolo. Grazie Massimo Bienati. Grazie a lei. È tutto, a lunedì.